Bad Boys represent La Bomba. Aleman, Simo X, yo, and just right, I'll beat. 2012. Yo, yo, yo. Comincia lo spettacolo, sono arrivati i med. Yes. Saltiamo ogni ostacolo, rappresentiamo un nuovo rap. Abbagliamo tipo LED, tuo antenato tipo Fred. Noi qua pompiamo sto suono tipo Tesme. Sembri Nedved, ma perché sei cieco? Non ci vedi, resta quieto. Il mio tempo non lo spreco. Alessimo, Bolzaneto, Andre l'amuleto. Porti male gufo, non mi stufo e dopo rido come Anacleto. Zero bad, beat tu, finto divo puoi levare. Solo mad, beat boom, pronti a scassare i quattro quarti. Tu sei bad, beat studio e pensi a come comportarti. Throwing dead, quit subito se pensi di sfidarci. Questo rap shit funge che manco puoi immaginarti. Il tuo rap si funge, chissà se potrai fidarti. È sicuro che in sto party tutti vogliono fare i king. Te fai duro ma sto party, qui ci pensa la mia clip. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i drip. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o non ce l'hai, parlo di credibilità. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i VIP. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o vai, non meriti di stare qua. Quando arrivo sulla traccia terremoto come tremor. Rime sciabolata come colpi di spada di Gamon. Tutti vivo il calemon mischiando con coca e rum. Sopra il boom, ciao, lascio testa in giù come il cartoon. Entro nel saloon con sta faccia da cartoon. Fumo skunk e vedo tutto in 3D come il Samsung. Sono piccolo stile piccini con sta vita in bilico che mi ha insegnato. Che qua rispetto va guadagnato, chi ti rispetta va rispettato. Forse l'hai dimenticato perché continui a sognare fresh. Sai com'è, vieni da ste parti un grande incubo tipo 883. Serve aiuto, allontanati da me. So che faresti lo stesso te, che autologi sei il migliore, ma di cosa tu ti senti re? Come l'isola di Peter Pan, il tuo stile non c'è. Aleman, fra qua più bombe di Saddam. Infatti sono più bombardato di Oliver Kahn. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i beat. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o non ce l'hai, parlo di credibilità. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i beat. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o vai, non meriti di stare qua. Sogno i soldi di Bill Gates, uscire con Megan Gates, schiacciare alle LeBron James. Invece lascio il mio Ron alla strip parade. Ti caccio come Blade, sei finto, sei fake, ci sei, io mi leverei. Accelera con un'accelerazione tipo Bane. Ti suggerirei di darti un taglio come Kate Moss. File boss, bro, ti fumo come la foglia tatuata sulla mano di Rick Ross. Adios, capo coi miei bros, perché te fai il pazzo, ma mi fai cagare il cazzo come il cibo da Bofrost. Fumo un razzo pakistano, ma chi sta notando quanti pacchi stanno uscendo? Il rap lo fanno solo per guadagno. Te fai il capitano, ma se capitano le occasioni. Sei un coniglio e fai come Schettino, porti via i coglioni. Moni che comandano e mancano a fine mese, mentre le spese ti mangiano e non puoi avere pretese. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i drip. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o non ce l'hai, parlo di credibilità. Tutti si sentono i king, tutti vogliono fare i VIP. Tutti pensano di essere i migliori sopra il beat. Aleman e Simo X, solo bombe su una track. O ce l'hai o vai, non meriti di stare qua. Credo che sia stato tutto chiaro. Oh.